E Utopie Cyberdada vuole essere uno spazio dove condividere le nostre utopie, dove ognuno possa esprimere idee, pensieri, proposte, attraverso messaggi, podcast o altro, una rubrica collettiva, insomma, una sorta di comunità invisibile. Ora cerco di illustrarvi brevemente il perché delle suggestioni del titolo della rubrica. Il titolo della rubrica, fra l'altro, fa l'occhiolino al titolo del libro Utopia di Thomas More. Utopia designa un'isola immaginaria, una sorta di paradiso terrestre, una società perfetta nella quale gli uomini vivevano nella giustizia e nell'armonia. Sembra che More fosse un po' indeciso sul titolo da dare al suo libro, indeciso tra Utopia, il luogo che non esiste, e Eutopia, il buon luogo. Infine More scelse Utopia e non Eutopia, pensando forse che desiderare troppo chiaramente un mondo migliore avrebbe potuto essere considerato come una critica troppo esplicita del regime in vigore. Credo che tutti noi avremmo scelto allora, come scegliamo oggi, Eutopia. Perché non abbiamo di questi timori, e la pausa forse era anche un po' voluta per farvi aggiungere qualcosa. Anzi, Cyberdada invece è il nome del movimento artistico creato nel 96 da Ermanno Senatore e me, Eva Rachele Grassi, una sorta di anticorrente militante di arte critica alla frontiera tra antichi e nuovi linguaggi, che intende e sperimenta le nuove tecnologie come il passaggio simbolico, culturale, sociale e politico dalla separazione specialistica alla molteplicità, che insiste a giocare con Dada, il movimento dell'avanguardia storica del dadaismo, appunto, nell'implicazione congiunta dell'opposizione viva all'assurdità assassina e mortifera della politica contemporanea e l'espressione artistica dispiegata su piani inusitati, in una visione anarchica pura dell'esistente che impedisce ogni possibilità di una politica concepita come potere di uno su molti o di pochi su molti. Attraverso il più grande atto di creazione che vogliamo giustamente sperimentare con le nostre utopie Cyberdada, quello della ricostruzione di se stessi e degli altri come esseri finalmente liberi, attraverso una pratica di ricreazione inevitabilmente legata all'intervenzione rievoluzionaria nel quotidiano. E allora, a risentirci tra una quindicina di giorni, ognuno con le sue utopie. Waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Tornate dalla Francia, farvi conoscere un po' agli autori di Radio Asile, degli autori che ho studiato, ho letto nelle mediateche dopo 30 anni di vita in Francia. Michel Onfray dell'Università Popolare, perché scrivono dei libri, sono stati tradotti anche in Italia, l'ho trovato di fatto alla Feltrinelli, sono dei libri sulla teoria della dittatura. Poi c'è anche un filosofo italiano, Giorgio Agamben, che conoscete, poi lo gira qualche passo. Poi sono anche musicisti, qualche volta leggerete qualche poesia con il sintetizzatore, la musica, eccetera, eccetera. Anzi, invito gli autori di Radio Asili a partecipare, come facevo negli anni Ottanta a Radio Popolare a Milano Brescia. Potete venire a leggere una poesia, io vi accompagno, chiacchierare, eccetera. Vorrei fare una trasmissione in sinergia, in interazione con voi tutti, non è quindi singolare qualunque, come dice Giorgio Agamben, ma collettivo sempre, un individualismo collettivo. Ok, la prossima volta vi parlerò anche degli autori che ho scoperto, la Feltrinelli, Baricco, vabbè, è italiano, Giorgio Agamben, a che punto siamo un po' sulla pandemia, ma piuttosto i francesi, Michel Onfray, qualche volta così Michel Houellebecq. Quindi vi parlerò un po' di questi libri, cercando di farlo, sono un situazionista, in una maniera libertaria, in maniera simpatica, con musiche e leggendo qualche testo di poesia un po' alla Carmelo Bene, per giocare un po'. Quindi un discorso che faceva Félix Guattari dell'avanguardia di massa, però sempre con l'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. Ok, bye bye, alla prossima puntata. Questo è giusto per fare un po' di confidenza, è un assaggio. Bye bye, au revoir n'importe où, diceva Mademoiselle Rimbaud, Arthur Rimbaud. Bye bye, alla prossima puntata.